per questo motivo abbiamo pensato fosse possibile tentare di fissare alcuni concetti chiave sui quali cominciare a riflettere per tentare di costruire, se possibile, col tempo una specie di thesaurus, diciamo, dei nuovi gruppi dirigenti di cui stiamo parlando. Io non ho ancora nominato, non ho ancora usato il termine borghesia, però per semplificare dirò che considero la borghesia il contenitore sociale di questi gruppi che ambiscono alla dirigenza tra 8 e 900 e che ottengono e che conquistano fondamentalmente questa dirigenza. Questo vale, secondo me, sia per la Germania che per l'Italia. Quindi una definizione molto, come posso dire, di tipo euristico, insomma, di borghesia, non di tipo invece. Allora, siamo arrivati qui per dire che un primo gruppo di lavoro sta lavorando prevalentemente sull'università, un secondo gruppo di lavoro preferisce lavorare sui concetti. Su questo secondo versante dei concetti, in realtà abbiamo già fatto molto, credo, abbastanza negli anni trascorsi, e l'abbiamo fatto, devo dire, in maniera accentuata anche con amici tedeschi. Questo è molto importante. Al di là di difficoltà che abbiamo incontrato collaborazioni molto intense da parte di amici tedeschi, e abbiamo già anche prodotto delle cose che vanno nella direzione dello studio delle dottrine o dei concetti, nel senso che ho appena cercato di dire, che poi preciserò meglio. In particolare, abbiamo stabilito un rapporto felice con, diciamo così genericamente, Francoforte, no? Passando attraverso soprattutto anche il contributo di Gerhard Dilcher, che ringrazio in modo particolare di essere venuto anche oggi nonostante i suoi impegni, e la sua scuola. E in modo particolare poi questo impegno è stato assunto da professor Schulze, che adesso sta a Treviri, però, quindi il discorso si è spostato, ma in ogni modo noi con questa, anche però Michael Stollais per esempio aveva in qualche modo partecipato e partecipa, anche se poi è sempre ancora più impegnato di tutti gli altri, quindi non viene veramente, però insomma fa parte del gruppo. Quindi, e abbiamo fatto delle cose e ne faremo delle altre, insomma, questo è importante. No, abbiamo fatto per esempio un buon seminario a Bad Homburg organizzato da Schulze, di cui sono usciti con rapidità gli atti, che sono stati pubblicati da Duncker und Tumblot in una nuova collana di Europäische, se non mi ricordo male, Reichsgeschichte. Però anche in Italia, anche a Trento, no? Abbiamo fatto delle cose che sappiamo tutti, insomma. Sono uscite, eccetera. L'ultima bella, secondo me molto bella, è che uscita da un seminario come questo è il libro che ha curato Aldo Mazzacane, che io ci sono per amicizia, insomma, sull'enciclopedia giuridica, no? Questo volume che è stato pubblicato come solito nelle nostre collane dal Mulino è, secondo me, un originale, ecco, in Italia, perché in fondo presenta un tentativo di analisi di una iniziativa scientifico-culturale come l'enciclopedia giuridica, tentando di studiarla sia dal punto di vista di storia del diritto, di storia del pensiero giuridico, ma anche dal punto di vista di storia del pensiero politico, di storia, eccetera, eccetera. Naturalmente ci sono gruppi in Italia che conducono queste ricerche da tempo immemorabile, con strutture, con capacità di lavoro ben maggiore delle nostre. Basta pensare al gruppo di Firenze o al gruppo ancora precedente, però adesso magari un po' così, di Genova, questo va da sé, insomma. Però il nostro carattere di Trento è che noi usciamo da una stretta logica di storia del pensiero giuridico, no? Perché non è mica il nostro mestiere, cioè alcuni di noi sono storici del diritto, ma non tutti siamo storici del diritto. Noi tentiamo di far esplodere questi problemi, che sono anche giuridici magari, in una, diciamo così, in un quadro più ampio, e quindi anche più complicato, e quindi ci sono anche maggiori rischi, spesso diciamo stupidaggini, ci ripetiamo, insomma. Ma insomma, questo è l'obiettivo. Detta, fatta questa premessa, che già forse era troppo lunga, però mi sembrava utile soprattutto per i nuovi amici, perché oggi abbiamo molti, alcuni nuovi amici, insomma, no? Che sono venuti sia dall'Italia che dalla Germania. Quindi a me piace che loro capiscano subito qual è quantomeno il clima, insomma, quali sono le nostre intenzioni. Oltre a, come ho detto all'inizio, una fondamentale e sacra base di amicizia, di compiacimento reciproco nel trovarci, che mi pare sia importante. Poi dopo i concetti, ecco, io adesso farei un altro, se mi consentite, 10 minuti, lo dedicherei a cercare di spiegare a me stesso perché questi concetti, perché studiare concetti, perché, insomma, che poi è un tema forse un po' liso, un po' abusato, se si vuole, questa. Ma adesso, innanzitutto devo dire che i protagonisti di questo incontro di oggi sono stati la professoressa Raffaella Gherardi e Gustavo Gozzi di Bologna, che sono miei antichi allievi, insomma, e che quindi io sono molto contento che loro hanno organizzato questa roba qui, e sono loro i principali responsabili, no? Però io vorrei dire lo stesso qualche cosa sui concetti. Ecco, non vorrei fare della teoria. Non vorrei fare Coselle, che non voglio stare a ripetere le cose di Coselle, ecco, che altro. Non... Vediamo di impostare più concretamente questo problema. Io direi che il punto di partenza per capire perché ci interessano i concetti è di ripetere che questo nostro gruppo ha un carattere essenzialmente interdisciplinare. Questo è molto importante. Ciao, Mauro Calise. Spero che tu trovi una sedia, ma forse sì. Quindi il carattere interdisciplinare del gruppo, concretamente, ci sono storici, no? Ci sono storici della dottrina politica, ci sono storici del diritto, ci sono storici del pensiero economico, ci sono politologi, ci sono delle volte anche filosofi. Questo dura da 10 anni. Il carattere interdisciplinare del gruppo, primo punto. Secondo punto, che è dettato dall'Istituto Storico Italo-Germanico, che giustifica, insomma, no, il perché ci si trova qui, questa obbligatoria comparazione italo-tedesca. Noi per questo non lo mettiamo in dubbio, cioè non abbiamo bisogno di discutere perché compariamo l'Italia, la Germania e non, per esempio, la Jugoslavia e l'Irlanda. Compariamo l'Italia e la Germania perché siamo nell'Istituto Storico Italo-Germanico. Poi dopo lasciamo alla immaginazione di tutti di trovare ragioni più sostanziali sulla utilità di comparare l'Italia e la Germania. Ma non c'è bisogno di dire più di tanto. 800-900, questa età a cavallo fra 19 e 20 secolo. Ci siamo arrivati perché quando siamo partiti avevamo bisogno di una più larga dimensione. Quando siamo partiti avevamo detto addirittura dal 17 al 20 secolo. Ci sembrava che non avessimo abbastanza materiale. E poi dopo, lavorando, abbiamo invece visto che il materiale era troppo. E così progressivamente ci siamo bloccati su questa fase relativamente recente, tra 800 e 900. Io dico che, per quel che capisco io, ma anche questo può essere e dovrà essere forse oggetto di discussione, che questa età, l'età dell'unificazione compiuta sia per l'Italia che per la Germania, e quindi l'età in cui dall'unificazione politica si passa a, o non si passa, alla costruzione del sistema politico, no? Questa è l'età per quel che capisco io, della più recente trasformazione. Io dico che per me la trasformazione ultima che noi, diciamo così, abbiamo avuto, ecco, si è verificata in quell'epoca. Lì sono per l'ultima volta avvenute, per quel che capisco io, grandi trasformazioni di tipo sociale, di tipo politico e di tipo ideologico. E quindi credo che per un'impostazione come la nostra il tema della trasformazione sia il tema cruciale, debba essere il tema cruciale, debba essere la leva che fa funzionare la macchina. Quindi l'ultima grande trasformazione. Cosa vuol dire? Cos'è lecchianamente? Vuol dire che si tratta di una Sattelzeit, che si tratta di un'età staffa, no? Si tratta di una di queste età che hanno sconvolto i parametri di riferimento culturali, di conoscenza, di comprensione della realtà, come Koselleck sostiene sia stata l'età fra la metà del Settecento e la metà dell'Ottocento. Cioè siamo alla ricerca di una nuova Sattelzeit. Non mi importa, non è questo il problema. Secondo me dipende sempre da chi guarda. Le età sono o non sono centrali e conclusive e rivoluzionarie, se posso dire così, a seconda dell'occhio di chi le guarda. Ecco, per noi quell'età, fra XIX e XX secolo, è importante perché, come ho detto, lì si è compiuta una trasformazione che ha due aspetti. Un aspetto è quello direttamente politico. In quell'epoca si avverte, si ha la chiarezza che si è compiuta una nuova sintesi politica. Cioè sono cambiati sia i gruppi che comandano che i gruppi che obbediscono in qualche modo. Ecco, questo mi sembra molto importante. C'è proprio un quadro nuovo di gruppi dirigenti, ma anche di destinatari del comando. E questo è il primo punto. La trasformazione però avviene anche sotto un secondo profilo, perché vengono introdotti, vengono inventati nuovi strumenti di esercizio del comando, o per meglio dire nuovi strumenti che riguardano sia la identificazione dei gruppi dirigenti nuovi e la costruzione della loro coscienza e secondo, anche vengono individuati nuovi strumenti che servono a consentire un esercizio più adeguato del comando e quindi che servono ad ottenere in modo più adeguato obbedienza. Perché questo, secondo me, del comando dell'obbedienza è il clou della sintesi politica, e in quell'epoca secondo me si attua una sintesi politica nuova. Questo secondo aspetto del secondo punto della trasformazione è quello che ci interessa di più oggi, perché questi nuovi strumenti, tra gli strumenti nuovi che vengono forgiati per esercitare meglio il comando ed ottenere migliore obbedienza, ci sono, a mio avviso, proprio le dottrine, i concetti. Ci sono e le dottrine e i concetti sono nuovi rispetto a prima perché passano attraverso una nuova fabbrica, un nuovo Betrieb. E questo Betrieb e questa fabbrica sono le scienze sociali, per quel che ci riguarda. Cioè, questa nuova fabbrica è l'università attraverso anche la strutturazione disciplinare nuova che a fine Ottocento si è affermata nel complesso delle cosiddette soziali und Staatswissenschaft. Quindi, per me questo qui è molto importante. Allora, ecco perché i concetti in certo modo, no? Penso sto andando troppo piano, ma insomma, adesso ho quasi finito. Allora, non ci importa se questa qui deve essere una Salterzeit oppure non è una Salterzeit, cioè non ci importa proprio, perché noi non vogliamo fare storia dei concetti fine a se stessa, come è venuto, come è accaduto, come sta accadendo in maniera sempre più diffusa, no? Dopo che questi tre grandi tedeschi, che sono appunto Brunner, Conz e Coselle, che hanno pensato ai geschichte seconde Griffe in tutta Europa, sono sorti persone che sono diventati professionisti della storia dei concetti. Noi credo che non lo vogliamo fare. Invece ci interessa, forse invece più che la storia dei concetti, ci interessa una specie di storia concettuale. Storia concettuale. Perché siamo convinti, perché cosa vuol dire storia concettuale? Una storia di qualche cos'altro, non dei concetti. Una storia di altre cose, ma fatta attraverso i concetti. Questo è un po' il discorso. Direi una storia concettuale come la faceva Brunner giovane, no? Cioè, prima che venisse, insomma, così sistematizzata nel monumento che poi è venuto fuori. Ecco. Quindi molto semplicemente una storia concettuale che mirava a cogliere appunto la determinatezza storica dei concetti, piuttosto che la loro essenzialità in periodi storici cruciali, no? Direi anche una storia concettuale un po' alla Max Weber. Io sono influenzato molto, avrete capito che naturalmente quasi tutti i passaggi della ricostruzione che ho fatto erano molto weberianamente surdeterminati, insomma, perché sto studiandolo per l'ennesima volta in questi giorni, quindi ecco. Però credo che anche rispetto ai concetti ci sia da Weber, ci sia da riprendere molto ancora di nuovo da Weber e dalla sua Wissenschaftslehre. Non i concetti descrittivi e illustrativi propri della storiografia politica, ad esempio, questo sarà importante per la conclusione a cui evidentemente poi arrivo, bensì concetti costruiti, quindi artificiali. E tutto questo allo scopo di, non di costruire, allo scopo di costruire non una scienza chiusa, sistematica, fatta di leggi, fatta di previsioni, nomotetica, bensì allo scopo di costruire un sistema di comprensione, una scienza di realtà, un qualcosa che è capace di consentire al singolo uomo ingaggiato, al singolo ricercatore, ma poi al singolo uomo, di stabilire sue proprie relazioni con la realtà. E quindi i concetti in questo modo qui, insomma, si potrebbe andare avanti a lungo naturalmente, ma quindi una comprensione per la quale i concetti svolgono un ruolo strumentale. Allora, ci interessano i concetti perché ne vogliamo capire e cogliere la loro determinatezza storica, ci interessano i concetti per la loro strumentalità, perché ci servono a comprendere a loro volta. Quindi è molto relativistico questo punto di vista, però spera di essere anche operativo. E quindi una storia, e quindi dei concetti che siano i mattoni costitutivi di una storia, appunto, come ho detto all'inizio, comparata e interdisciplinare. E per forza una storia comparata e interdisciplinare ha bisogno di concetti più possibile artificiali, cioè concetti. Cioè una storia che non vuole essere, che non deve essere la somma di storie particolari. Noi potremmo fare nel nostro gruppo somma di storie particolari, perché ci sono tanti storici diversi, ma non è questo che ci interessa. Vorremmo invece stabilire, stiamo cercando di stabilire un possibile livello comune, medio, fra le diverse prospettive storiche, un livello praticabile trasversalmente, che quindi abbia un lessico suo, che consenta di svolgere un discorso unitario e comprensibile da tutte le parti, allo stesso modo, senza egemonie, se possibile. Io credo che questo livello sia appunto quello dei concetti, o per meglio dire, e qui cioè c'è sta rivistina anche, forse le dottrine anche. Ma qui diventa troppo lungo davvero il discorso, mi devo fermare. Per una storia delle dottrine si chiama questa rivistina, che sempre questi di Bologna soprattutto fanno con tanta insistenza, anche se poi tocca pagarla qui, ma sono pazienza. E appunto, perché per una storia delle dottrine? Perché ci è parso che le dottrine siano proprio un po' i canali principali attraverso cui in un'età storicamente determinata i canali attraverso cui passano le diverse successive comprensioni della realtà che servono agli uomini per stare insieme in maniera come si sta insieme, in maniera politica. Quindi per stare insieme, tutto sommato, esercitando il comando. Ci sembra che le dottrine contengano tra le diverse forme in cui la conoscenza si consolida, le dottrine contengano sia una dimensione di operatività, sia una dimensione di trasmissibilità, che ne fanno il canale privilegiato per la successione, la crescita, lo sviluppo dei gruppi dirigenti. Quindi le dottrine, ma le dottrine appunto sono fatte di concetti. I concetti, le dottrine, secondo me appunto, concetti e dottrine ci conducono dove dobbiamo arrivare, che ho finito, che è appunto la benedetta storia costituzionale. La benedetta storia costituzionale. In una storia, perché la storia delle dottrine, intesa in questo modo, è un gradino necessario per una storia costituzionale. Perché almeno parzialmente la storia delle dottrine riesce a fissare un aspetto importante di ogni costituzione, che è l'aspetto relativo al convincimento, al consenso, ma bisognerebbe usare il termine giusto, che è anche il termine che usa Weber per queste cose, anche se lo si sa poco, e cioè il termine di disciplina, che rappresenta la disciplina, che rappresenta davvero, credo sempre di più che la disciplina rappresenti un pezzo forte della Costituzione, di ogni comunità. E la disciplina ha molto a che fare con le dottrine, nella doppia dimensione che le dottrine hanno di operatività e di trasmissibilità. Quindi i concetti diventano, insomma, dei mattoncini importanti in tutta questa organizzazione. Quindi è un po' complicato, ma però non, perché io sono incapace di esprimermi, insomma, è solo per quello che è complicato, in realtà è semplicissimo e soprattutto ci si diverte. I concetti che abbiamo scelto questa volta non sono tutti i concetti, i soli concetti che hanno a che fare con la grande trasformazione di fine 800, primo 900. Assolutamente no. Abbiamo incominciato, abbiamo scelto quelli i primi che abbiamo trovato, abbiamo dovuto fare i conti con le disponibilità, abbiamo scarsa fantasia, quel che volete voi. Cioè non, questi concetti qui sono lì un po' per caso, cioè per provare a vedere se si rompe il ghiaccio, se ci si può parlare sopra, se operando in questo modo ne viene fuori qualche cosa. Anche il metodo che abbiamo usato è molto primitivo, volutamente. Cioè ci è parso che, visto che siamo interdisciplinari, che siamo comparati, che abbiamo trovato dei concetti, la cosa migliore fosse di pigliare un italiano, un tedesco su ogni concetto e di farli parlare mezz'ora l'uno. Non è che ci siano dietro delle grandi stravaganze metodologiche, insomma, è molto banale. Adesso cerchiamo di capire se funziona. Quindi io mi scuso per questo sproloquio straordinariamente lungo e complicato che ho fatto, ma serviva per dire che, insomma, noi ci crediamo abbastanza in queste cose e adesso direi che incominciamo a lavorare. La tradizione nostra, per quelli che non lo sanno, è di tentare di non tradurre simultaneamente, insomma, ma di operare in modo che ognuno parli nella propria lingua. Una però condizione perché questo possa accadere è che i relatori parlino in modo il più possibile chiaro e anche lentamente, perché altrimenti andiamo in tilt tutti, sia gli italiani che i tedeschi, no? Quindi questo vi pregherei di farlo. Io non lo so, a me pare di ricordare che avevamo previsto che delle interventi di una mezz'oretta, no? Una mezz'ora, in modo da poterli fare. L'ordine di successione degli interventi che è stato stabilito, mi pare di ricordare che segua vagamente una certa logica, insomma, nel senso che lo Stato di diritto, per esempio, quindi è quello lì. Si fa così.